Naturalmente vado ancora una volta a rinnovare l'invito alla sottoscrizione per questa emittente che è dal 1977 autogestita e che va avanti dunque con gli sforzi di chi la vive e con il decisivo apporto di chi l'ascolta. Quindi conto corrente postale 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Villa Volsci 56 00185, Roma. Si va a salutare Maia dalla Sardegna, Lucia Cagliazza da Udine, Nicola Locci anche lui della Sardegna, il maestro Sisto Palombella con il quale inizieremo tra qualche istante, Like Awake anche lui progetto romano di Dark Ambient e Space Ambient, qui da Roma Marco lo abbracciamo, Tania da Napoli, l'onnipresente Raffaele Pezzella e dalla Lombardia Isa e Tual. Dunque, Small Pieces of Accordion on the Broken Table, ormai stiamo facendo la conoscenza con questo lavoro di Sisto Palombella, maestro e virtuoso della fisarmonica e synth accordion. Ci andiamo dunque a rinfrancare, diciamo, con queste due tracce di Sisto Palombella, ossia L'Aquila e Bloody Christmas. abilissimo tessitore di splendide armonie, Sisto Palombella, attraverso la sua fisarmonica, il synth accordion, tastiere, e non dobbiamo sottovalutare anche l'apporto vocale. Questa voce non invasiva, ma sicuramente di impronta jazz, come molti dei passaggi musicali di Sisto, fischio compreso. Small Pieces of Accordion on a Broken Table, dal quale abbiamo estratto L'Aquila e Bloody Christmas. Negli estremi della penisola salutiamo Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta e Antonella dalla Sicilia, amici di lunga data. Di nuovo Lupsi, della quale ascolteremo del materiale la prossima settimana, già lo possiamo dire sin da ora. E da Sisto Palombella rimaniamo in Italia attraverso la persona di Raffaele Pezzella, ormai strafamoso da queste parti come musicista ma anche ideatore e fondatore della label Unexplained Sounds, compreso pure il gruppo Facebook dove si può trovare della ottima musica, veramente consigliato per gli appassionati. Però oggi ci spostiamo nella etichetta parallela, la 8 Hour Records, più affine a discorsi inerenti all'ambiente, ad atmosfere più rarefatte, come questa From Decay, Death and Darkness, Aural Visions of Beksinski, multimediale artista al quale è dedicato questo compendio, che comprende molti artisti italiani. Oggi ci ascoltiamo Cordings Cincti Serpente di Giovanni Lisi e Mario Cordaro e poi Occult Odyssey, del quale non so nulla e Raffaele Pezzella eventualmente ci può rendere edotti. Allora ci ascoltiamo di Cordings Cincti Serpente la ottima traccia Beyond the Mouth Zone. come giustamente ci dice Antonella, l'elemento misterico in Cordins Cinti Serpente è decisamente predominante, ma anche le infiltrazioni noise che hanno contraddistinto la traccia per Giovanni Lisi. Andiamo avanti dalla medesima compilation di Piazzella. Eccoli qua dunque, Occult Odyssey, Nahamma Domina Inarum Indulgentes. Come nello spirito di molte composizioni di questa compilation, siamo nel filone misterico, ritualistico e naturalmente oscuro. E questi sono i messicani Occult Odyssey di Simone de Samaria e Umberto Landa. Ringraziamo Raffaele Pezzella della precisissima informazione. Naturalmente anche di loro c'è un profilo Bandcamp. Due tracce dunque estratte da Decay, Death and Darkness, Aural Visions of Basinski Art, una delle innumerevoli compilation tirate fuori dal cilindro magico di Raffaele Pezzella, questa volta attraverso la 8 Tower Records. Vorrei segnalare l'uscita di Sonologist dal nome Phantom, che ascolteremo la prossima settimana, l'ultimo lavoro proprio di Raffaele attraverso il suo progetto principale, che andremo a conoscere molto volentieri il mercoledì prossimo. E anzi, lo ringraziamo del regalino. Ci avviamo verso frequenze leggermente più disturbate, anzi direi di parecchio. L'approccio è decisamente diverso ed appartiene a questa etichetta tedesca dal nome Galat Corro, famosa soprattutto per aver dato alle stampe i lavori di Ausrafna, November Novelet e tanti artisti che nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, somigliano proprio a questi due progetti. Per esempio anche Herz Juning, secondo ed ultimo lavoro dal nome Samsara. È il turno di... anche qui c'è un Phantom, guarda un po', Phantom Pain, Coma One Army of Misery e Coma Number 2 Abshalten. We'll be right back. Sono le 21:47 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando Prove Tecniche di trasmissione in onda ogni mercoledì sera dalle 21 sino alle 22:30, anche se stasera è in leggero ritardo. Un ottimo secondo lavoro per il teutonico Erzsi Jüning. A casa l'ho presso lo Galaccorro, un vero marchio di fabbrica. Etichetta fondata da Austin Hafner e, come ho già detto, molti dei loro artisti in qualche modo si rifanno a quella tradizione armonica. Sotto di claustrofobica minimal dark wave a trazione industriale, un marchio al quale anche Erzsi Jüning non sfugge. Questa sera altre tre nuove tracce da questo Samsara, secondo lavoro del 2018. Andiamo leggermente più a nord, andiamo in Svezia e questa sera finiamo di rendere omaggio a Tantum Melior, ultimo lavoro per Nordvarger, pezzo grosso, icona della scena industrial noise teutonica. Ricordiamo ancora una volta questa integrale rilettura di Metempsychosis, un album dello scorso anno. E a breve distanza esce anche questo nuovo lavoro che ci conferma l'estrema attività di Nordvarger. Intanto andiamo a salutare Buon Cesare che ci sta ascoltando qui da Roma. Lo salutiamo e lo abbracciamo. Un saluto a Cesare. Tornando a Nordvarger, or dunque ci ascoltiamo anche qui due remix, ossia Sweet Death Triumphant, di un remix, una rilettura di Torofon, un nome a noi assai noto, e poi Consolamentum ad opera di Benjolin Codex. ancora tanto Melior e ancora Nordvarger. Questa è la traccia che va a chiudere il suo lavoro, questo ultimo lavoro, e si chiama Consolamentum, con una rilettura ad opera di Pendulum Codex in una versione, diciamo, death ambient. Lasciamo tanto meglio e torniamo qui in Italia con un artista proveniente da Milano che risponde al nome di Iena, uno pseudonimo che cela il vero nome di Giona Vinti, che salutiamo. Gli scenari sono ancora più disturbati per certi aspetti rispetto a Nordvarger, molto più granitici e brutali. Questo lavoro si chiama Fanes ed è, credo abbia 2 anni, esatto. E questa è una lunga traccia che porta il nome di Nivritti Marga. Un abbraccio anche al Fulvio Biondo, ottimo musicista come Solar Lodge, prima o poi, ma anche molto presto, devo dire, ci ascolteremo anche qualcosa della carriera di qualche anno fa, dato che ci siamo gustate le ultime mosse di Fulvio Biondo ed Enrico Angarano. Ma torniamo a Iena.